La prima molecola è H2O, costituita da idrogeno, numero atomico 1, e ossigeno, numero atomico 8. Questi numeri vanno moltiplicati per il numero di atomi presenti per ogni elemento e poi sommati. La seconda molecola è NaI, formata da sodio, numero atomico 11, e iodio, numero atomico 53. Anche in questo caso, i numeri atomici vanno moltiplicati per il numero di atomi presenti per ogni elemento e poi sommati.